Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 71, una puntata caldissima di buon blues bollente, ma soprattutto caldissima perché viene fatta, realizzata durante un periodo di caldo veramente insopportabile al quale noi non siamo abituati e che quindi ci condiziona un po' in tutti i nostri movimenti, in tutto il nostro fare, perché ci sentiamo un pochettino più stanchi, più spossati, con meno energie, con questo caldo umido che ci fa sempre sudare e ci fa vivere tutto con pesantezza. Ma approcciamoci alla musica sperando che questa ci possa far staccare dai pensieri del caldo e ci possa far volare un po', magari rinfrescandoci. Sicuramente rinfrescheremo l'animo ad ascoltare buona musica, che inizia subito con Ashley Jackson, che si presenta a Blues Fires con il CD Lucky Me, e da questo CD ho selezionato per voi questo pezzo che è tra i più interessanti di questo progetto discografico, intitolato Coming Around. Buon ascolto con Ashley Jackson. Thank you. bene, questo era il caldo, pastoso blues del gruppo capeggiato da Ashley Jackson, vocalist e chitarrista veramente bravo, con una voce piuttosto grintosa, forte, calda, che ci ha proposto questa, con la quale ci ha proposto questa Coming Around, una sua composizione originale tratta dal CD Lucky Me. Un gruppo poco conosciuto qui da noi che mi ha fatto piacere promuovere, così come tanti altri che in Italia, pur avendo dei valori internazionali, niente male, in Italia non sono molto conosciuti. Altro artista che merita attenzione è questo C.C. Adcock, che ha realizzato nel 2004 un CD intitolato Lafayette Merkis e che stasera potremo ascoltare attraverso una composizione originale intitolata Stealing All Day. C.C. Adcock, buon ascolto. Stealing our dishes. grande carica, una grande forza espressiva, nello stesso tempo un suono che ci riporta a vecchie sonorità di un blues, tra virgolette, detto sporco degli anni 60 e 70. Certo, un CD questo di C.C. Adcock che, come dire, offre opportunità di sorpresa, perché ogni pezzo veramente è una sorta di viaggio a sé, non si dà mai niente per scontato. Dopo questo pezzo, per esempio, ce n'era uno dolcissimo, calmo, che sembrava realizzato da un altro musicista. Quindi scopro a volte che ci sono artisti che si esprimono pur all'interno di uno stesso progetto discografico anche con linguaggi a volte molto diversi tra loro. Certo, tutto questo è, tra virgolette, normale, nel senso che noi viviamo delle emozioni che sono già molto diverse all'interno della stessa giornata, figuriamoci in un periodo, in mesi, in anni in cui si scrive per creare un progetto discografico. Quindi chiaramente anche le emozioni che riusciamo a trasportare attraverso la scrittura della musica e magari dei testi può subire delle grandi variazioni. Ma a volte ci si sorprende perché i linguaggi sono molto sono estremamente vari, insomma estremamente diversi, come se fosse davvero un altro artista a continuare a comporre. Dopo C.C. Adcock è il momento di un artista scomparso l'anno scorso, nel 2014, il grande Johnny Winter, che potremo ascoltare attraverso la pubblicazione Third Degree, pubblicata dalla Alligator Records, dalla quale noi abbiamo tratto questo pezzo piuttosto interessante. Tin Pan Alley, buon ascolto quindi con la voce di Johnny Winter. Kind of woman that don't seem to care. Tin Pan Alley, baby, must be your home. Well, nothing down there, baby, but blood and bone. Thank you. Tin Pan Alley. It's way across town. People like to kick the dog when the sun goes down. Hurry up, baby. Eh beh, è sempre un piacere ascoltare Johnny Winter. Questo pezzo è il pezzo forse tra i più interessanti di questo Third Degree, questo CD pubblicato dalla Alligator Records. Tin Pan Alley, una composizione originale di Johnny Winter che mette in evidenza la sua poesia, la sua naturalezza, la sua grande esperienza di cantautore, di bluesman e non solo, perché Johnny Winter ha spaziato anche nel folk, nel country, o almeno in un certo tipo di country, eccetera. Johnny Winter dal CD Third Degree con il pezzo Tin Pan Alley. E adesso andiamo avanti con Chick Wrentz Rolling River Band. Si tratta di un gruppo che non abbiamo mai promosso prima e che qui in Italia è veramente molto poco conosciuto. Di questo gruppo noi ci potremmo ascoltare una composizione originale intitolata Images. Quindi buon ascolto con Chick Wrentz Rolling River Band. Turning green to red. I know people are talking. Words are rolling around my head. And I know the time moments are slowing down. And I know the time moments are slow. Slowly on down. Slowly on down, a movie on down. glass will break. You'll find out just who you are. And I know the time movement so slowly now. And I know the time movement so slow. It's slowly on Bene, questa era la musica del gruppo Chick Rents Rolling River Band. Il CD in questione è Udu River e il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Images. Le sonorità di questo gruppo ci riportano addirittura, in alcuni momenti mi riportavano ai Doors, figuriamoci, mi riportavano ad alcuni pezzi dei Doors, anche se poi non c'è niente in comune, però a volte certe atmosfere chissà come mai ci creano dei collegamenti automatici e ci riportano magari solo una piccola sequenza di note o solo un'atmosfera particolare ci ricala in altri ascolti del nostro passato, della nostra memoria. E quindi facevo caso al fatto che alcuni musicisti nell'ambito blues, ma non solo in ambito blues, anche in ambito jazz questo accade, amano veramente a volte un certo periodo storico della musica del proprio genere, del proprio linguaggio, e si lasciano affascinare da questo periodo e quasi automaticamente ripropongono delle atmosfere che sono ricollegabili a quel momento storico, a quell'espressività, insomma, di quel certo periodo, a volte di un artista in particolare, a volte proprio di una sorta di periodo storico, di epocale proprio musicale. E è il caso di Chick Rents, che appunto forse almeno a me riporta certe atmosfere degli anni 60 legati a gruppi rock blues di quel periodo. Dopo Chick Rents Rolling River Band e il CD Hoodoo River, è il momento di un CD pubblicato proprio fresco fresco quest'anno. Lui è un bluesman italiano, Davide Drusian, ed è un artista che mea culpa ho scoperto da poco e che però mi sembra molto interessante. Il CD pubblicato quest'anno e che ho apprezzato moltissimo è intitolato 108 Blues Solos, e da questo CD ho selezionato per voi questa composizione originale intitolata Mellow Down Easy. Buon ascolto quindi con Davide Drusian. Wiggle, wiggle, yeah. wiggle, wiggle there. Wiggle, wiggle, wiggle. Everywhere is a mellow down, is it? Is a mellow down, is it? Is a mellow down, is it when they really wanna blow your dog? Thank you. Bene, questo era il valido e particolare bluesman italiano Davide Drusiano, un musicista che mi ha sorpreso anche per, non solo per la sua così appariscente validità sia come vocalist che come chitarrista, ma anche per vivere una sua strada personale al blues. A volte noi si usa dire la ricerca di una strada personale. Io credo che molti artisti, in qualsiasi ambito, non solo quello musicale, ma anche in quello artistico delle arti figurative e in altri settori, più che cercare, gli artisti trovano. Vengono in mente sempre le vecchie parole di Picasso, che diceva: io non cerco, trovo. Ed è quasi sempre così, nel senso che arriva l'intuizione, arriva attraverso spesso anche un ascolto interiore, insomma, secondo quello che sentiamo vibrare dentro, i cosiddetti pruriti espressivi, i bisogni, insomma, espressivi, nascono dei modi di dire, dei modi di comunicare, dei modi di esprimersi, e quindi nasce in modo spontaneo e naturale, non tanto per una sorta di ricerca, ma perché dentro di noi avvengono dei cambiamenti, avvengono dei movimenti che portano al momento giusto un certo tipo di espressione invece di un altro. E quindi Davide Drusian è un artista che evidentemente in modo naturale si esprime percorrendo un proprio percorso, una propria strada al blues. E in questo pezzo intitolato Mellow Down Easy è molto evidente, molto chiaro questo suo percorso, ripeto, interessante, particolare, che non disdegna assolutamente la grande tradizione, ma che mantiene anche un contatto piuttosto evidente anche con la contemporaneità. 108 Blues Solos è il titolo del CD pubblicato proprio quest'anno da Davide Drusian, dal quale ci siamo ascoltati Mellow Down Easy. E adesso è il momento di Alan Jewel, che anche in questo caso ci propone un CD uscito proprio quest'anno, intitolato Sundown Over Ghost Town, dal quale noi ci potremo ascoltare Here With Me. Buon ascolto con Alan Jewel. I see ancient city in the sky. You would love the way they shine. I know just how you'd be looking at me with that smile that says, why be melancholy? If you were here with me, sweet, gentle touch. Bene, questa era la morbida ballad blues che ci ha offerto la cantante Aileen Jewell dal CD Sundown Over Ghost Town, pubblicato nel 2015. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Here With Me, interpretato con morbidezza e nello stesso tempo con partecipazione da Aileen Jewell, che si presenta nei nostri programmi per la prima volta con questo CD appena uscito. E stasera abbiamo diversi CD, l'avete già ascoltati, alcuni pubblicati proprio quest'anno, freschi freschi, e continuiamo questa serie anche con Eugene Hideaway Bridges, che dal CD Hold On A Little Bit Longer, pubblicato appunto anche questo nel 2015, ci farà ascoltare Change Your Name, una sua composizione originale. Buon ascolto quindi con Eugene Hideaway Bridges. Bene, anche questo un blues che ci riporta alla memoria altre atmosfere. Io credo che in molti di voi sia affiorato il ricordo del grande B.B. King mentre ascoltavamo Eugene Hideaway Bridges, uno stile, un linguaggio che sicuramente nel cuore di questo artista ha fatto breccia, quello di B.B. King, e un po' perché il timbro della voce e l'utilizzo di questa voce ci ha riportato, almeno a me ha riportato alla memoria certi pezzi suonati e cantati da B.B. King, ma anche proprio lo stile chitarristico sembra, insomma, no, in sintonia, almeno in armonia con quello del grande maestro scomparso. Eugene Hideaway Bridges, ce lo siamo ascoltati in Change Your Name, un pezzo tratto dal CD Hold On A Little Bit Longer, un pezzo appunto tratto da questo CD pubblicato nel 2015, anche questo un pezzo, proprio un CD fresco. E adesso proseguiamo, dopo Eugene Hideaway Bridges, con Dave Cormier. Anche Dave Cormier ha pubblicato nel 2015, quest'anno, un CD intitolato Little Pieces, e da questo CD noi ci ascolteremo una composizione originale dell'artista intitolata Changing. Buon ascolto quindi con Dave Cormier. I'll tell you why I don't come around. I'm getting tired of this dirty old town. And you know, it just don't please me. Still looking for the Nashville sound. Can't live with you bringing me down. I think it's time for you to release me. E questo era Dave Cormier, anche questo fa parte dei tanti artisti che ho scoperto in questi ultimi tempi e dei quali mi sono procurato le ultime produzioni discografiche. Questo Dave Cormier, che anche lui appartiene un po' a questa schiera di cantanti rock soul, pop soul, con chiaramente la presenza fondamentale del blues nel loro DNA espressivo, ma che ricordano anche loro in qualche modo altri cantanti. Mi veniva in mente Huey Lewis, mi veniva in mente altri cantanti che noi conosciamo benissimo e che hanno un'impostazione più o meno di questo tipo. Insomma, a volte si dice niente sotto il sole, niente di nuovo sotto il sole, a volte invece riusciamo a intravedere, come dicevo prima, nel caso di Davide Drusian, insomma, magari un tentativo di trovare, a volte io uso il termine viottolino, no? per non parlare proprio di vera e propria strada nuova, ma almeno un viottolo, un percorsino, un piccolo percorso personale, insomma una propria via all'espressione del proprio linguaggio, che magari è stato battuto e ribattuto dopo un secolo di grandi presenti, di grandi personalità che hanno lanciato modi di esprimere questa tipologia di linguaggio. E quindi a volte comunque, indipendentemente dalla grande originalità, è magari gradevole lo stesso l'ascolto di certi artisti che, pur non rappresentando un picco di originalità incredibile, però riescono a proporre la propria musica con professionalità, con validità, con sentimento, nel senso che le cose che cantano sono sentite, sono vissute con partecipazione, sia sul piano vocale che sul piano strumentale, come nel caso di questo Dave Cormier. Little Pieces è il titolo del CD uscito nel 2015, Changing era il pezzo che ci siamo ascoltati. Dopo Dave Cormier è il momento di Guy Verlinde, anche questo una new entry per quello che riguarda i nostri programmi. Il CD in questione è intitolato Better Days Ahead, pubblicato anche questo nel 2015, proprio per continuare questa serie di nuovissime pubblicazioni discografiche. Il pezzo che ho selezionato per voi è intitolato Wild Nights, Guy Verlinde. Buon ascolto. Oh, Bene, questo era il caldo, pastoso, robusto blues di Guy Verlinde. Ci siamo ascoltati Wild Nights, tratto dal CD Better Days Ahead, disco appena pubblicato che ho ascoltato con interesse. Adesso chiudiamo la serata con un mito del passato, Sister Rosetta Tharpe. La potremmo ascoltare in una registrazione del 1992, un po' alla fine della carriera, in un live registrato all'Hot Club de France. Live at the Club de France è proprio il titolo del CD, Traveling Shoes è il pezzo che ci proporrà questa grande cantante del passato, e cantante e chitarrista del passato, Sister Rosetta Tharpe. Traveling shoes, Lord, got on my traveling shoes now, got on my traveling shoes, got on my traveling shoes now, got on my traveling shoes. I went to a church one beautiful day. I heard what the preacher had to say. He said, get down on your knees, sister, and you go on and pray. I got up there and these are the words that I said. I feel like traveling now, got on my traveling shoes. Feel like traveling now, got on my traveling shoes. Going on home, got on my traveling shoes. Going on home, got on my traveling shoes. Feel like traveling now, got on my traveling shoes. Feel like going home, got on my traveling shoes. Feel so happy now, got on my traveling shoes. Feel so glad now, got on my traveling shoes. Traveling shoes, traveling shoes, traveling shoes. Travel, travel, travel, traveling, traveling, traveling. Hey, got on my traveling shoes. Tutta la grande passione di questa straordinaria artista, Sister Rosetta Tharpe, che ha chiuso la nostra puntata con Traveling Shoes, tratto da questo live, Live at Hot Club de France, pubblicato nel 1992. Questo era l'ultimo pezzo di Blues Fires numero 71, l'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.